questo trend, questa tendenza che adesso a me sembra smaccata, era osservabile già anni fa. Pensa che già nel 2022, quando c'erano state le elezioni legislative in Francia e c'erano appena state le cosiddette elezioni di midterm all'Europarlamento, cioè il ricambio dei vertici, avevo scritto un'analisi per il Mulino che si chiamava proprio il cordone sanitario contro la sinistra, cioè avevo adocchiato questa tendenza già da un po', e per me era stato proprio significativo un episodio. Mi ero trovata nella sala d'attesa, diciamo così, di un bureau dei popolari europei con davanti a me Roberta Metsola, che stava per diventare presidente dell'Europarlamento con i voti anche di Fratelli d'Italia e dell'estrema destra, e lei, conversando, diceva appunto: noi siamo molto più lontani dalla sinistra che da Fratelli d'Italia, dagli amici di Fratelli d'Italia. Quello per me è stato un primo segnale d'allerta. Il secondo grande segnale d'allerta è arrivato nell'estate del 2022, quando in Francia l'unione di sinistra iniziava a spopolare. Infatti l'abbiamo visto poi l'estate scorsa, si è assestata come la prima forza politica in Francia, e Emmanuel Macron, così abile a demonizzare fino a quel momento l'estrema destra di Marine Le Pen, ha riversato la stessa tattica contro Mélenchon, che è diventato un nuovo diavolo, diciamo così. Ormai questa tendenza è evidente, perché con disinvoltura svariata politici che vanno dallo schieramento sedicente liberale al cosiddetto centrodestra parlano di estrema destra e estrema sinistra. In realtà io non penso che siano assolutamente paragonabili partiti post-nazisti, post-fascisti, che predicano xenofobia, demolizione dell'avversario, con non solo partiti anche socialdemocratici, penso all'SPO in Austria, cioè è un partito noto per la buona amministrazione, i buoni trasporti pubblici, un partito che a Vienna governa con successo da molti anni, ma anche i movimenti, perché questa strategia di demonizzazione della sinistra è applicata non solo a qualunque partito abbia qualche velleità ancora di giustizia sociale, ma anche agli attivisti climatici, ai sindacati. Avete visto Salvini che ha provato a bloccare gli scioperi? Ecco, questa stessa tendenza c'era stata in Gran Bretagna con Truss e Sunak, c'è stata con Orban. Insomma, l'alleanza tra forze neoliberali e forze di estrema destra sta portando al tentativo di marginalizzare qualsiasi forma di dissenso, e in questo caso la sinistra ampiamente intesa. Tu racconti anche del caso del sostegno all'AfD e anche di quello che accade in Austria. C'è un elemento forse nuovo, anche questo non so se è nuovo in realtà, che non solo, diciamo così, i moderati, i liberali di centrodestra, ma anche gli industriali sembrano fare parte di questo meccanismo. Secondo me il caso austriaco è un caso esemplare per smascherare questa alleanza di cui ti dicevo prima, cioè tra interessi economici e populismi retoriche di estrema destra, perché il Partito Popolare Austriaco, che in lingua si chiama FP, ha una forte strutturazione legata al mondo dell'economia, quindi rappresentanti della Confindustria locale, ha un ruolo attivo nei negoziati di un governo. È una cosa molto più evidente che da noi, dove magari le influenze sono più indirette. Quindi i rappresentanti del mondo economico effettivamente siedono al tavolo nel quale si negozia un governo, e personaggi che rappresentano il mondo del commercio e dell'industria, gente come Maher o Kmill, dicono esplicitamente che il programma dell'estrema destra di SPO è estremamente più compatibile a quello dei popolari rispetto a quello dei socialdemocratici. E per quale motivo? Perché sostanzialmente i socialdemocratici difendono due principi: innanzitutto la tenuta della spesa sociale, mentre il mondo del grande business, centristi e estrema destra sono disposti anche a fare politiche di austerità. E poi i socialdemocratici dicono: se c'è una crisi la deve pagare chi fa più profitti e chi è più ricco. Allora, senza arrivare all'esempio pratico di Babler, il leader dei socialdemocratici austriaci, che propone quella che noi chiameremmo patrimoniale, c'è una logica di giustizia sociale, quindi chi ha di più deve contribuire di più. Invece il mondo dell'economia ovviamente non vuole, e pur di evitarlo è disposto a descrivere i socialdemocratici come dei pericolosi rievocatori della socialdemocrazia d'antan, e in compenso cosa sta facendo? Sta consegnando il governo a Herbert Kickl, che fino al giorno prima demonizzava come l'amico di Orban, l'amico di Putin, post-nazista, nemico degli immigrati, tutte cose effettivamente vere, ma che evidentemente non inibiscono abbastanza queste realtà dall'allearvisi. Con la coppia Trump-Musk negli Stati Uniti questa tendenza è destinata a peggiorare? Sicuramente sì, però io vedo anche un'opportunità e sarebbe il caso di iniziare a discuterne, nel senso che sicuramente questa ondata di trumpismo verrà cavalcata dai nostri sovranisti come dei surfisti entusiasti. Proprio in queste ore c'è il raduno dei patrioti a Madrid sotto lo slogan MEGA. Però se è vero che abbiamo la prova che i cosiddetti liberali e centristi non ci hanno protetti da questa arrembante estrema destra, allora forse c'è uno spazio per la sinistra. Cioè iniziamo a discuterne, perché già una volta abbiamo visto che la globalizzazione, che ci raccontavano come la panacea di ogni male, senza globalizzazione dei diritti è stata disastrosa. Però la missione di questa crisi è stata presa in mano dai fautori della crisi stessa. Non possiamo permettere che questo accada di nuovo, quindi quello che io auspico è che ci sia una reazione di movimenti, società civile, tutti quei corpi intermedi che in questi anni sono stati presi a schiaffi dai giornali e sindacati, perché in realtà c'è più che mai bisogno di un'alternativa che evochi giustizia sociale e democrazia. Quindi è opportuno anche guardare a uno spiraglio di speranza e non solo abbatterci dicendo che sì, loro sono sempre più forti e sono sempre di più.